Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Appena battuta un'agenzia dice l'approvazione del disegno di legge europea 2013 consente l'archiviazione di 19 procedure di infrazione e di 10 casi che, se non risolti, porterebbero all'apertura di altrettante procedure di infrazione. Così il ministro per le politiche europee Enzo Moavero Milanese in una conferenza stampa conclusasi poco fa a Palazzo Chigi. E dunque il progetto di cui appunto abbiamo appena sentito l'apertura è anche l'oggetto dell'approfondimento curato da Maria Luisa Pezzali. Ne ha parlato con Michele Bordo, presidente della Commissione per le politiche europee. Sentiamolo. L'approvazione delle leggi europee ci consentirà di chiudere numerose procedure di infrazione che l'Unione Europea aveva aperto nei confronti del nostro Paese e che, se portate alla condanna da parte della Corte Europea, avrebbero prodotto per il nostro Paese sanzioni pecuniarie molto molto pesanti, nell'ordine di decine di milioni di euro ogni giorno. Sta crescendo la consapevolezza europea, per così dire, dei parlamentari italiani? Sta crescendo e d'altronde la legge attuale prevede un rafforzamento anche del ruolo del Parlamento nazionale relativamente alle scelte che si fanno in Europa, e questo è per noi un passo in avanti molto molto importante verso l'ambizione di arrivare agli Stati Uniti dell'Europa, perché oggi il tema è che la competizione con il resto del mondo non possiamo più reggerla come singolo paese, ma soltanto se stiamo dentro un luogo democratico molto più importante, che è appunto l'Europa. Regione e governo lavoreranno insieme in un unico tavolo per la programmazione dei nuovi fondi UE 2014-2020, lo ha riferito il presidente della conferenza delle regioni Vasco Errani al termine dell'incontro tra Regione e Ministero della Coesione Territoriale. Non vanno moltiplicate le agenzie di gestione, ha detto Errani, le verifiche sulla spesa dei fondi non vanno fatte solo negli ultimi anni. In sintesi, va costruita una strategia paese per fare un salto di qualità nell'innovazione. Un dato che riguarda invece il Wi-Fi: secondo un nuovo studio della Commissione europea, il Wi-Fi raccoglie un grande successo e questa tendenza è destinata a continuare a crescere. Nel 2012 nell'Unione europea il 71% di tutto il traffico dati senza fili è stato generato da smartphone e tablet utilizzando proprio il Wi-Fi, una percentuale che potrebbe toccare la soglia dell'80% entro il 2016. Sono Federico Taddia e oggi vi segnalo l'iniziativa Young Voices, giovani che informano i giovani, che si terrà alla Casa per l'Europa di Gemona, in provincia di Udine, sabato 3 agosto dalle 10 alle 12. L'evento rappresenta un'occasione per conoscere in prima persona le opportunità di mobilità, di formazione e di lavoro in Europa, quali esperienze concrete di cittadinanza attiva, grazie alle testimonianze dirette dei giovani che hanno partecipato ai programmi educativi e professionali offerti dall'Unione Europea. Durante questo appuntamento verrà illustrato sia il nuovo portale europeo dei giovani, attraverso cui la Commissione Europea comunica le opportunità di impiego, di studio e volontariato, sia il portale dei giovani promosso dall'Agenzia Nazionale per i Giovani, gioventù.org. Per informazioni www.casaxeuropa.org. E naturalmente ritrovate tutto su radio24.it. Per quanto riguarda Europa 24, l'appuntamento è per domani alle 13.10. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.